Pagine per il futuro. Bentrovati a un nuovo appuntamento di Pagine per il futuro. Il progetto del Piccolo Teatro di Milano e Radio 24 che propone in riduzione radiofonica un classico della letteratura, drammatizzato da attori del piccolo e commentato da ospiti di volta in volta invitati dal mondo della cultura, della politica e dell'economia. L'ospite di oggi è il banchiere Matteo Arpe e affronta il tema lealtà e tradimento. Per farlo ha scelto il libro Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, nella lettura di Tommaso Minniti e Anahi Traversi. Il 24 febbraio 1815 la vedetta di Nostra Signora della Guardia dette il segnale della nave a tre alberi Faraon proveniente da Smirne. Un pilota costiero partì subito dal porto, passò vicino al castello d'If e salì a bordo della nave. Il Faraon avanzava spinto dalle sue tre vele, ma tanto lentamente, con andatura così triste, che i curiosi si domandavano quale disgrazia fosse capitata a bordo. La vaga inquietudine che attanagliava la folla aveva particolarmente agitato uno degli spettatori, che non volle attendere l'entrata del bastimento nel porto, ma saltò in una barchetta e ordinò di vogare verso il Faraon. Vedendolo giungere, un giovane marinaio lasciò il suo posto a lato del pilota e venne, col cappello in mano, ad appoggiarsi al parapetto del bastimento. Era un ragazzo di 20 anni circa, alto, con occhi neri e capelli color dell'ebano. Si scorgeva in tutta la persona quell'aspetto di calma e di risoluzione proprie degli uomini avvezzi fin dalla loro infanzia a lottare coi pericoli. Ah, siete voi, Dantes. Ma cos'è accaduto? Perché cotest'aria di tristezza a bordo? Una gran disgrazia, signor Morel. All'altezza di Civitavecchia abbiamo perduto il capitano Leclerc. È morto di una febbre cerebrale tra orribili patimenti. Che volete, Edmond? Riprese l'armatore Morel. Siamo tutti mortali. E bisogna bene che i vecchi cedano il posto ai giovani. Senza questo non vi sarebbero avanzamenti. E il carico? È in ottimo stato, signore. Matteo Arpe, perché il Conte di Montecristo? Devo dire, la scelta era su un testo che ricordasse, sentimenti di lealtà e tradimento. Il Conte di Montecristo è un libro, secondo me, molto bello, ambientato oltre un secolo fa, ma che conserva molto attuali questi sentimenti, che sono anche sensazioni che si vivono oggigiorno nel mondo economico. Devo dire, lì si tratta degli armatori, del carico, e devo dire, sono cose che ancora oggi si vivono. Quindi lealtà e tradimento sono due termini, appunto, che si hanno nel romanzo, che sono termini che proprio contraddistinguono in fondo l'esperienza umana. Ecco, e quindi non c'è mai tradimento. Ma io devo dire che sono stato testimone nella mia vita professionale di tanti episodi molto belli di lealtà, che forse fa meno rumore, meno notizie dei tradimenti che ci sono stati, ma la lealtà di tanti colleghi, di tante persone, è stata uno dei motivi più importanti professionali della mia esperienza. Ecco qui il vostro contabile, signor Danglars, disse Dantes vedendo l'impazienza dell'armatore. Lui vi darà tutti i chiarimenti che potete desiderare. Io devo sorvegliare l'ancoraggio e parare la nave a lungo. L'armatore non se lo fece ripetere due volte. Il giovane, ritornando al suo posto di ufficiale in seconda, cedeva la conversazione a colui che aveva annunziato con il nome di Danglars. Era un uomo di 25-26 anni, di figura molto cupa, ossequioso verso i suoi superiori, insolente con i sottoposti. Era tanto malvisto dall'equipaggio quanto, al contrario, Edmond Dantes era amato. Signor Morel, disse Danglars, sapete già la disgrazia, non è vero? Povero capitano Leclerc, era un bravo ed onesto uomo, soprattutto un eccellente uomo di mare, invecchiato fra il cielo e l'acqua come si conviene ad un uomo incaricato degli affari di una casa così importante come la Morel e figli. Sì, ma, disse Morel, tenendo gli occhi rivolti a Dantès, mi sembra che non occorra essere marinai tanto vecchi quanto voi dite, Danglars, per conoscere bene il mestiere. Guardate il nostro Edmond, che compie benissimo il suo, anche se è ancora giovane. Sì, disse Danglars, gettando su Dantès uno sguardo obliquo in cui balenò un lampo d'odio. Sì, questi è giovane che non teme nulla. Appena morto il capitano prese il comando senza consultare alcuno e ci ha fatto perdere un giorno e mezzo all'isola di Elba. Quanto a prendere il comando della nave, era suo dovere farlo come secondo ufficiale. Quanto a perdere un giorno e mezzo all'isola di Elba. Dantès! Chiamò Morel. Venite qua! Scusate un istante, signore, disse Dantès, che restò al suo posto malgrado la presenza del pilota finché l'ultima manovra fu terminata. Vedete? Disse Danglars. Parola d'onore, egli si crede già capitano. Scusatemi, signor Morel, disse Dantès avvicinandosi. Mi avete chiamato? Danglars fece un passo indietro. Volevo domandarvi perché vi siete fermato all'isola d'Elba. Per eseguire l'ultimo ordine del capitano Leclerc, dimorendo mi aveva consegnato un pacco per il maresciallo Bertrand. Edmond! Avete dunque visto il maresciallo? Sì. Morel si guardò attorno e trasse in disparte Dantès. E come sta l'imperatore Napoleone? Bene, per quanto ho potuto giudicare coi miei occhi. Avete veduto anche l'imperatore? Entrò dal maresciallo mentre vi ero anch'io. Andiamo, andiamo, continuò Morel, battendo amichevolmente la mano sulla spalla del giovane. Avete fatto bene ad eseguire le istruzioni del capitano Leclerc a fermarvi all'isola d'Elba, benché se si venisse a sapere che avete consegnato un pacco al maresciallo e parlato con Napoleone, beh, ciò potrebbe senza dubbio compromettervi. Ma io non so neppure cosa portassi e l'imperatore mi ha fatto quelle domande che avrebbe indirizzato al primo arrivato. Ebbene, mio caro Dantès, non avete niente a fare qui. Potete dunque venire a pranzo con noi? Scusatemi, ve ne prego, ma la mia prima visita la devo a mio padre. Ah, giusto, giusto, Dantès. So che siete un buon figlio. Ebbene, dopo questa prima visita, noi contiamo su di voi. Scusatemi ancora, signor Morel, ma dopo questa prima visita io ne ho un'altra che non mi sta meno a cuore. È vero, dimenticavo che nel villaggio dei catalani vi è qualcuno che deve aspettarvi con non minore impazienza di vostro padre, la bella Mercedes. Edmond, non siete da compiangere, non voglio trattenervi più, avrei un congedo di qualche giorno da domandarvi. Per sposarvi? Prima di tutto per sposarmi, poi per andare a Parigi. Bene, prenderete il tempo che vi occorre, Dantès, però sarà opportuno che vi troviate qui fra 3 mesi. Il faraone non può salpare senza il suo capitano. Il suo capitano? Esclamò Dantès con gli occhi sfavillanti di gioia. Vi ringrazio in nome di mio padre e di Mercedes. Va bene, Edmond. Rimango a regolare i miei conti con Danglars. Siete stato contento di lui durante il viaggio? Dipende. Come camerata, no. Come contabile, credo che non vi sia nulla da dire. Ma se voi foste capitano del faraone, conservereste volentieri Danglars a suo posto? Capitano secondo, avrò sempre i più grandi riguardi per coloro che godono la fiducia dei miei armatori. Dantès, vedo bene che siete un bravo giovane. Andate, perché state sui carboni ardenti. Arrivederci, signor Morel. E mille grazie. Edmond Dantès balzò su una scialuppa. L'armatore, sorridendo, lo seguì con gli occhi fino alla spiaggia. Alle sue spalle, Danglars, in apparenza sembrava attendere ordini, in realtà anche lui seguiva il giovane marinaio con la coda dell'occhio. Soltanto vi era una grandissima differenza nei due sguardi che seguivano lo stesso individuo. l'opinione comune, l'opinione generale è che il sistema finanziario sia più fatto di sotterfugi, sia più fatto di infedeltà, di sapere qualcosa in più degli altri, di insider trading, così. È realistico oppure è l'immagine che se ne ha del sistema finanziario visto da fuori, dai profani? Ma innanzitutto opererei una distinzione fra finanza e banca. L'attività bancaria data diversi secoli, almeno sei secoli fa, la finanza ha 50 anni di vita, come è chiaro evidentemente che non sono due cose che sovrappongono. È vero che oggi il percepito comune, anche in un periodo di crisi, che la mancanza di alcuni valori importanti, che sono meritocrazia, trasparenza, sia la base di molti episodi importanti all'interno del sistema economico, non soltanto italiano ma a livello mondiale. La mancanza di meritocrazia, la mancanza di aderenza ad alcuni valori. E devo dire, questo sta comportando un intervento del legislatore. La mancanza di un concetto di che cosa si dovrebbe fare viene sopperito con un obbligo a non fare, che è di per sé un fallimento nel modo di vedere, cioè la mancanza di un sentito comune sopperita da normativa è perché manca un codice di comportamento. E tra i valori appunto del sistema finanziario dovrebbe esserci anche quello della trasparenza, cioè di permettere a tutti gli operatori di avere le stesse informazioni, quindi di muoversi in un campo con estrema libertà. Molto spesso la finanza invece è un luogo chiuso. Per fare un esempio, il salotto buono, la sua esperienza in Mediobanca era quella del salotto buono, era un luogo un po' riservato, un po' chiuso, un po' di elite. Io l'ho vissuta da molto giovane, sono entrato in 22 anni in Mediobanca subito dopo la laurea. All'epoca sì, si è chiamato salotto buono, però il principio ispiratore e il sistema di valori più o meno condivisibile che si proponeva a Mediobanca era quello di rappresentare un'alternativa al peso politico e quindi un'alternativa non politica nel sistema economico. Quindi è vero che poi si poteva identificare come un salotto buono, però rispondeva a un concetto di separatezza fra politica e economia. Non sempre evidentemente prendeva le posizioni corrette, però rispondeva a un concetto valoriale. L'appartenenza o meno dava l'idea del salotto buono. Devo dire, in tutto il mondo esistono strutture di questo tipo. Devo dire, io non l'ho mai vista connotata negativamente, nel momento in cui non esclude, ma era un sistema che ha permesso a diverse aziende italiane di rimanere in vita in un'economia tipicamente familiare. Ecco. Però qualche scatola cinese di troppo c'era. No, molte scatole cinesi di troppo, devo dire, ma ripeto, a livello teorico assolveva un compito molto importante. Pagine per il futuro. Continuiamo nell'ascolto dell'incontro organizzato da Radio 24 e il Piccolo Teatro di Milano. Lealtà e tradimento sono al centro della conversazione con il banchiere Matteo Arpe, a partire dal Conte di Montecristo, romanzo di Alexandre Dumas. Sono l'abate Fariga, prigioniero fin dal 1811 in questo castello di If. Non siete l'abate che credono malato? No! Che credono pazzo! Sono io. Ma raccontatemi la vostra storia. Dantes allora raccontò. E finì col dire che non sapeva neppure più da quanto tempo era prigioniero. Se volete scoprire il colpevole, cercate prima colui al quale può essere utile il delitto. C'era nessuno a cui potesse interessare che voi non foste nominato capitano del faraone? No, ero molto amato a bordo. Se i marinai avessero potuto eleggere un capitano, sono certo che mi avrebbero scelto. Solo un uomo aveva qualche motivo d'ira contro di me. Danglars? Bene. Ora, chi ha assistito al vostro ultimo colloquio col capitano Leclerc? Nessuno, eravamo soli. La porta era socchiusa, anzi... Ah, un istante, aspettate. Danglars è passato proprio lì, nel momento in cui il capitano Leclerc mi consegnava il pacco per il Gran Maresciallo. Bene! All'isola d'Elba vi è stata data una lettera? Sì. E quando voi siete risalito a bordo tutti hanno potuto vedere che avevate una lettera, tutti compreso Danglars. Sì. Ora, ascoltate bene. In quali termini era formulata la denuncia? Dantès pensò un istante, poi disse: eccola, parola per parola. Il signor procuratore del re è avvisato da un amico del trono e della religione che Edmond Dantès, comandante in seconda sul bastimento Pharaon, giunto questa mattina da Smirne, è stato incaricato da Murat di una lettera per Napoleone e da questo di una lettera per il comitato bonapartista di Parigi. Seconda domanda. C'era nessuno a cui potesse interessare che voi non sposaste Mercedes? Sì. Un giovane che l'amava, Fernando. Credete che sia stato capace di scrivere la lettera? No, no, no. E poi ignorava tutti i particolari scritti nella denuncia. Allora fu Danglars! Danglars conosceva Fernando? No, sì, sì. La vigilia del mio matrimonio li ho visti assieme ad un tavolo dell'osteria. Sulla tavola dove bevevano c'era un calamaio, della carta e delle penne. Ah, oh, e così, così fu. Fu là che scrisse quella lettera. Infami! Allora, una luce folgorante passò per la mente di Dantès. Tutto ciò che gli era rimasto oscuro venne illuminato da una chiarezza risplendente. Gettò un grido, traballò come un ubriaco, poi cadde sul letto con gli occhi fissi, immobile, muto come una statua. Sono mortificato di avervi aiutato nelle vostre ricerche. Perché? Domandò Dantès. Perché vi ho infuso nel cuore un sentimento che prima non c'era. La vendetta. Una notte Dantès sentì Faria che lo chiamava con voce disperata. Si precipitò subito da lui e vide l'abate ritto in mezzo alla cella, pallido, col sudore alla fronte, le mani intirizzite. Passò un'ora. Finalmente un leggero colorito apparve sulle guance del vecchio. Un debole sospiro sfuggì dalla sua bocca. Temevo di non rivedervi più. Perché? Tutto è pronto per la fuga. Ero certo che sareste fuggito. Dantès arrossì d'indignazione. Alzandosi e stendendo con solennità il braccio destro sul capo del vecchio, su ciò che vi è di più sacro, giuro di non lasciarvi che alla vostra morte. Faria guardò questo giovane così nobile e lesse sul suo volto la lealtà del suo giuramento. Lesse sul volto la lealtà, poi gli strinse la mano. La lealtà compare in questo brano del Conte di Montecristo, così come compare la vendetta, il sentimento della vendetta. E certamente sono due sentimenti forti, anche nel mondo finanziario. Sì, ovviamente anche nel mondo economico, come in tutto, diciamo, il vivere umano. Molto bello in questa parte anche la lealtà non attesa, no? Dall'abate Faria, prima, cioè, non si aspettava questo comportamento. E l'indignazione di Edmond Dantès quando invece lui era certo di essere leale. Per cui, devo dire, questo qui è un passaggio molto bello, no? Molto frequentemente non ci si aspetta un gesto di lealtà e invece arriva e cimenta amicizie e rapporti che poi durano nel tempo. La fedeltà all'amico porterà buoni frutti. Faria confida a Dantès il luogo segreto dove è conservato un tesoro, convincendolo a recuperarlo una volta fuggito dal castello d'If. Passano 14 anni e Dantès riesce a evadere, recupera il tesoro e prende il titolo di Conte di Montecristo. È un uomo nuovo e va alla ricerca dei suoi delatori. Uccide Danglars e riduce in rovina Fernando, che nel frattempo ha sposato la sua amata, Mercedes, che ora ha scoperto tutto. Non è la contessa di Morcerf che viene da voi, Edmond. È Mercedes. Mercedes è morta. Mercedes vive e vi ricorda. Vi ho riconosciuto. Alla sola voce, Edmond. Al solo accento della vostra voce. Da allora vi ho seguito, vi ho sorvegliato. E vi temo. Non ho avuto bisogno di cercare la mano da cui è partito il colpo che ha abbattuto il conte di Morcerf. Fernando. Poiché ricordiamo i nostri nomi, usiamo quelli veri. Ascoltatemi. Anche mio figlio ha indovinato tutto. Vuole sfidarvi a duello. E sappiamo bene come finirà. Attribuisce a Montecristo la disgrazia che è caduta su suo padre. Vi confondete, signora. Non è una disgrazia. È un castigo. Non sono io che ho perseguitato il signor Morcerf. È la provvidenza che l'ha colpito. E perché vi sostituite la provvidenza? Che male vi ha fatto, Fernando? La vera colpevole sono io, Edmond. E se dovete vendicarvi di qualcuno, è di me, che ho tradito la nostra promessa, costretta dalla vostra assenza. Perché sono stato assente? Perché foste arrestato. E perché fui arrestato? Lo ignoro. Ebbene, ve lo dirò io. Fui arrestato perché... la vigilia del giorno in cui dovevo sposarvi, un uomo chiamato Danglars scrisse questa lettera che Fernando si incaricò di consegnare personalmente alla polizia. Il signor procuratore del re è avvisato da un amico del trono e della religione che tale Edmond Dantès, comandante in seconda del... Ah. Oh mio Dio. La conseguenza di tale denuncia la conoscete, signora. Fu il mio arresto. Quello però che non sapete... e che io sono stato per 14 anni ad un quarto di lega da voi in una cella del castello di... lì. Ogni giorno di questi 14 anni ho rinnovato il mio giuramento di vendetta. Quello che non sapevo io, invece, è che voi aveste sposato Fernando, il mio delatore, e che mio padre fosse morto di fame. Da allora non ebbi più un'ora di calma, abituando il mio corpo ai più duri esercizi e l'anima mia ai più ardui cimenti, insegnando al mio braccio ad uccidere. Da buono e compassionevole divenni vendicativo, impassibile come il cieco destino. Allora mi innalzai, varcai i limiti imposti all'uomo, portando sventura a coloro che incontrai sul mio cammino. Basta, Edmond. Come ora tra me e il passato c'è un abisso, così c'è un abisso tra voi e gli altri uomini. Che cosa desiderate? Che mio figlio viva e sia felice. Vostro figlio sarà felice. Grazie, Edmond. Eccoti di nuovo quale ho continuato a sognarti, quale ti ho sempre amato. Addio, Edmond. Non ho più nulla da chiedere al cielo. Ti ho rivisto vivo e poi ancora ti ho rivisto nobile e grande. Addio e grazie. Trovo la determinazione nella sua volontà, qualsiasi essa sia, devo dire... molto bella, perlomeno mi riconosco molto nella determinazione di raggiungere certe cose. Mi piace molto la parte finale di questo pezzo letto, laddove il suo sentimento di vendetta è minore del ricordo del suo schema di valori. Quindi in un certo senso c'è quasi il giudizio sul fatto che la vendetta non sia costruttiva e la speranza che si possa realizzare un mondo più giusto anche senza la vendetta. Sì, devo dire, andando a guardare il romanzo, il concetto secondo me che voleva passare è che la vendetta, ripeto, torna indietro, il sentimento che viene nel colloquio fra Edmond e Mercedes è un sentimento invece attuale, di sentimento di ricordo, di amore, no? E quindi il presente rispetto al passato, e vince il presente nel colloquio fra i due. Fino al giorno in cui Dio si degnerà di svelare all'uomo i segreti dell'avvenire, tutta l'umana saggezza sarà riposta in queste due parole: attendere e sperare. Vostro amico Edmond Dantès, Conte di Montecristo. Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Intervista a Matteo Arpe di Gianfranco Fabi. Voci di Tommaso Minniti e Anahi Traversi. Riduzione radiofonica di Marco Rampoldi e Guido Scotti. Pagine per il futuro torna la settimana prossima.